impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Alberto Stella, il silenzio e la sicurezza degli arredi Estel per la nuova sede astronave di Apple. Di Anna Marino. Acusticamente silenzioso, luminoso, confortevole, in cui diciamo uno può meditare, riflettere, pensare a occhi aperti. Ognuno di noi ha un luogo preferito in casa in cui rifugiarsi. Può essere la sala, lo studio, la cucina. Queste sono le speciali qualità che lo rendono intimamente nostro, secondo Alberto Stella, la cui famiglia imprenditoriale, da generazioni, si occupa dell'arredo che oggi viene definito smart, e cioè funzionale e innovativo, sia nella vita sia nel lavoro. Estel, fondata nel 1937, è il più grosso player italiano nel mondo ufficio. Produce infatti soluzioni di arredamento e complementi di arredo non solo per la casa, ma anche per i luoghi di lavoro, ed è molto attiva nel mercato contract del settore bancario e assicurativo. Annovera tra i suoi clienti i più importanti istituti bancari europei da oltre 20 anni. Intesa San Paolo, Santander, BNP Paribas, BPM, Unicredit, ING Direct, Royal Bank of Scotland, Allianz, Generali, Reale Mutua. Estel infatti si identifica nella convergenza tra il mondo domestico e l'efficienza professionale tipica dell'ufficio. Negli anni 30, quando Estel nasce come acronimo di Estensibile Stella per volere di Alfredo Stella, l'azienda interpreta la migliore definizione di armadio e contenitore per i bisogni dei nuovi interni delle famiglie italiane. Sono anni di brevetti tuttora ineguagliati e di successi commerciali celebri, come l'armadio ad ante scorrevoli Estensibile Stella. Ricordo quello che mi raccontava mio papà, perché è stato mio padre a fondare l'azienda nel 37, diciamo durante il periodo della guerra. Lui mi racconta che ha fatto dal commercio dei mobili, quindi mia nonna, sostanzialmente ha fatto le prime camere per gli amici che si sposavano, e quindi ha preso la passione di questi amici veneti che venivano qui in Brianza a comprarsi le camere. Ha detto: no, guardate, ve la faccio io, e quindi è partito per hobby, per gli amici. Il vero sviluppo comincia negli anni 50, dopo la guerra, e lui si specializza nel mondo dell'armadio guardaroba. L'armadio guardaroba entra, diciamo, nel sangue, tanto che fa diversi brevetti e inventa l'armadio smontabile. Io ricordo da piccolo che vedevo gli armadi negli anni 50 partire, che andavano via tutti montati, e lui si inventa, diciamo, un tipo di ferramenta, un tipo di cerniere, un tipo di serrature, eccetera, per cui gli permette di mandare via i mobili, l'armadio smontato. Negli anni la qualità e la resistenza dei mobili Estel, come per esempio all'alluvione del Polesine e alla massa d'acqua che aveva sommerso gli arredi di legno, ha dimostrato coi fatti la qualità e la funzionalità della lavorazione. Se parliamo degli anni 30-40, io ho solo dei vaghi ricordi dei mobili bombati, dei mobili in poliestere lucido, della radica di noce, mentre poi ricordo invece quelli degli anni 50-60, perché vedevo, ecco, un materiale molto nobile, il paniforte di Stellare, che era un materiale molto robusto, molto forte, diciamo, aveva degli spessori molto leggeri, quindi era un materiale leggero ma nello stesso tempo resistente. E un'altra peculiarità che aveva il paniforte di Stellare, che ha ancora tutt'oggi, è che durante l'alluvione del Polesine un armadio, diciamo, viene allagato e va sotto acqua. Il cliente, il rivenditore, gli chiede a mio padre di riverniciarlo perché aveva il fango. E mio padre, quando vede il mobile, dice: beh, senti, questo qua me lo tengo io per pubblicità e te ne mando uno nuovo. E il cliente ha detto: no, tu mi rivernici il mio e mi torni il mio. Per dire che questo materiale, pur sotto acqua, diciamo, non si gonfiava, mentre adesso, se lei prende un mobile moderno e lo butta in acqua, si gonfia. Poi Estel segue la storia d'Italia e lo sviluppo dell'economia reale, il boom economico, la nascita della grande distribuzione, gli albori dell'internazionalizzazione. Gli anni 70 vedono la nascita del progetto Ufficio, con il quale Estel ottiene la leadership nel mercato italiano, insieme alla divisione Contract, che si aggiunge negli anni 90. Ma i fondamenti del commercio sono cambiati nel tempo, dalla garanzia della durata alla velocità. il mercato era gran parte domestico e quindi l'internazionalizzazione non se ne parlava. Io quando ho cominciato nel 78 ad andare in Francia, andare in Belgio, eccetera, a portare i mobili, ecco, mi sono preso del pazzo dal papà, perché diceva che i mobili non si potevano esportare. Non è un caso che ci sia il mobile antico che si tramanda di famiglia in famiglia, o che ci sia anche un mercato dell'antiquariato, perché sul concetto del mobile c'era un concetto di resistenza, di durata, di garanzia. Mio padre garantiva i mobili già allora 10 anni, solo che 10 anni erano troppo, sono alla luce di oggi che vige il usa e getta, è un handicap far mobili che resistano troppo. Dal Veneto, dall'Italia, ma soprattutto dopo 90 anni di storia, Estel, azienda da 350 addetti e un fatturato di circa 60 milioni di euro, è approdata a Cupertino per il nuovo Campus 2 di Apple. Dopo 2 anni di competizione, l'azienda italiana di mobili si è aggiudicata una commessa da 80 milioni di dollari per realizzare le pareti divisorie in vetro del nuovo quartiere generale. Si tratta di una fornitura di pareti antisismiche e accessori da installare nella nuova sede della società americana, progettata dallo studio Foster di Londra. Sarà una sorta di astronave. Avrà la forma di un grande anello con una circonferenza di 1,5 km. Sarà pronta presumibilmente verso la fine del 2016, quando termineranno i lavori di realizzazione attualmente in corso dal 2012. Apple ha investito somme da capogiro per la sua nuova casa, 5 miliardi di dollari per il progetto nel complesso, dei quali oltre 161 milioni saranno utilizzati per la costruzione di un auditorium da 11.000 metri quadrati e 74 milioni per un futuristico centro fitness da 9.300 metri quadri, a disposizione dei 13.000 dipendenti cui il colosso darà lavoro. Ecco il messaggio che, secondo Alberto Stella, dà questa vittoria. Come in ogni cosa, no? Sei al posto giusto al momento giusto, e quindi un po' perché ti impegni a farlo, un po' perché c'è la coincidenza, quindi la fortuna, se vuole, o il caso, eccetera, e ci troviamo di fronte a questa opportunità. Tenga conto che la parete divisoria oggi rappresenta il primo prodotto di Estel come in termini di vendite, per cui è un prodotto che produciamo dall'89-90. È un prodotto che ha superato il test nel 2010 a Santiago del Cile, resistendo a un Richter 10, no, 9 mi pare di scala. C'è una certa preoccupazione, perché allora siamo di fronte alla più grande azienda al mondo, siamo di fronte al più grosso studio di architettura al mondo che è Foster, siamo di fronte a un grosso general contractor svedese, americano, eccetera, di Pierre Skanska, che anche questo è, allora, per cui si tratta con i numeri uno. Allora viene in soccorso un po' la cultura e la storia, no? Io per esperienza dico, quando ci metti di impegno, quando sei serio nel lavoro e segui sostanzialmente il percorso e trovi le soluzioni, cioè non è che tutte le soluzioni fossero progettate, programmate, eccetera. È un prodotto che noi chiamiamo one-off o custom, no? Cioè è un lavoro che è molto particolare, bisogna seguire alcune istruzioni e bisogna dare delle soluzioni, e ci vuole molta pazienza, perché c'è un team di super esperti, di super giudici, no? Che ti guardano la vite, il diametro della vite, insomma. Quindi ecco, tutte queste caratteristiche che sono tipiche un po' dell'italiano, no? Che nella difficoltà, nella sofferenza sa trovare la soluzione, ecco, faccia conto che questo cocktail è utile per l'impresa. Fare cose straordinarie con un forte senso di responsabilità e normalità, non solo con la forza del prodotto ma anche con l'immaginazione, si traduce in investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione che rende competitiva l'azienda. Estel lo ha dimostrato con i fatti e con la scelta di Apple, e il futuro del mobile è essere smart e vivo. Questa è l'immagine di case e uffici smart e all'avanguardia secondo Alberto Stella. Come il vetro che si può rompere, no? Fragile, ma allo stesso tempo pesante, no? e che si deve assemblare. Bello sarebbe vendere solo oggetti, non so, la poltrona in cui siamo seduti, la sedia, la lampada, eccetera. Quelli sono ancora, fanno parte del mondo seriale. Il mobile, il sistema, l'apparente, le scrivanie o fanno parte, diciamo, del mondo componibile, quindi di questa organizzazione di saper mettere insieme tutti i mosaici, tutti i pezzi del mosaico. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.